24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Secca l'inglese, con doppio turno alla francese e il ballottaggio e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Vi manderei proprio una torta a casa, ognuno una torta, un mazzo di fiori, due rose, due giacinti, 40 gerani, 80 euro, quello che c'è, un regalino a casa. Devo festeggiare qua, bisogna festeggiare. È veramente stata una serata bellissima. Forse ho esagerato un po', insomma, ieri a parlare di questi argomenti con troppo magari calore. Stamani la gente mi ha fermato, insomma, di solito vogliono fare una foto, chiedono un autografo, invece stamattina c'era uno che si voleva confessare, ho detto, beh, uno mi ha chiesto se ero libero per fare un battesimo, gente che mi voleva destinare l'8 per mille addirittura. Non rubare, diciamo che ci ha voluto riservare un trattamento di favore, diciamo, ci ha fatto un comandamento proprio per noi italiani. Vabbè, Roberto Benigni, io lo attendevo proprio sul comandamento non rubare, ecco, cosa dirà sul comandamento non rubare per gli italiani? Ecco, così, un comandamento che Dio ha voluto fare proprio per noi italiani. Questa è la marcia, rida gli incazzati. Chissà se anche oggi farà i suoi 10 milioni, quanti ne ha fatti la prima serata? 9 milioni e mezzo, 10 milioni più o meno una cosa del genere. E Roberto Benigni! Non male anche quella, vorrei fare un regalo a tutti gli italiani che mi hanno seguito la prima serata, un mazzo di fiori, che ne so, 80 euro, eh? Vabbè. Sono le 6:28 minuti e questa è 24 mattino. Iniziamo sempre prima ormai, eh? Sotto Natale. Allora, alle 6:29 minuti ormai, voglio salutare Lorenzo Nespoli in redazione, voglio salutare Paolo Corleone in regia. Che fai? Stai qui con noi sta settimana? No, ha finito, mi ha guardato come dire ho finito. A che ora ti svegli quando vieni qua a quest'ora? Mezz'ora prima di che? Come alle 6? Come fai a svegliarti alle 6 e essere qua? Ecco appunto. Allora sì, preciso, alle 5:30, non ho capito, ho detto a che ora ti svegli e mi fai le supercazzole, mi fai i quiz. Alle 5:30, no, non è difficile rispondere. Mannaggia ragazzi, sembra un interrogatorio della CIA qua a estrapolare due informazioni base. Allora, questo è 24 mattino, eh? Il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Avete visto Benigni? No, non avete visto Benigni, avete visto Ballarò, avete visto Di Martedì, avete dormito, avete fatto di meglio, chi lo sa. Intanto ancora 5 sveglie alle 5 e poi è Natale, per quel che mi riguarda. Ve lo dico subito, non rompete i maroni. Il 24 dicembre è il mio ultimo giorno di lavoro, poi ci risentiremo l'8 gennaio. È Basta polemiche. Li sento già. Quelli che mi scrivono, ci sono quelli che mi scrivono equivocando il mio ruolo evidentemente con quello di Barack Obama, dicendo: ma come, il paese è in difficoltà e tu vai in ferie? Ma che c'è, cosa devo fare io, cioè, per il paese? Niente. E quindi vado in ferie. Però apriamo subito il Parlamento. Oh, guarda qua, mi... Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Mi esibiscono subito la copia fresca di Vanity Fair, così Lorenzo Nespoli me l'ha portata, no? È tornato, sì, ma tra poco lo trovo. Paola Saluzzi è tornato, tranquillo. È tornato. Buongiorno. È tornato, ma era stato semplicemente un problema di fuso orario del telefono. Sì, esatto. Assolutamente, il jet... niente di più, però è tornato. Il jet lag è stato smaltito dall'iPhone o dal telefono. Adesso ho fatto già pubblicità, non lo so se c'è l'iPhone. Luca Dini, direttore di Vanity Fair, non lo so. Buongiorno. Io sono ignorante, quindi per me dire iPhone vuol dire smartphone. Io sono, non è che... Come va? Vabbè. Bene. Tutto è bene. Tornato. Eccolo qua. Oh, è me l'ha... sempre stato qui, in realtà. Ah, ecco, l'hai dimenticato a casa. Cioè, tu sei andato a New York. A New York eri? Che hai fatto? No, era un veloce viaggio di lavoro. Bello, belli misteri. Appena però appena escono le cose sulla CIA, Luca Dini va a New York, va in America. Attenzione. Proprio il nostro agente alla CIA, sì. Però guarda Paola, che io finalmente posso sfogliare. Eccolo qua. Ti ricordi che di recente il nostro Luca Dini è andato in Canada in mezzo agli orsi? Sì. Finalmente, eccolo qui, addio Nanook. Dove eri? A Churchill. Esatto. Mamma mia, che foto. Ma le hai fatte tu? No, non le hai fatte tu. Ma le avete fatte lì, quando... Sì, beh, certo. Non sono mica peluche, dai. No, no, non è una metiscia. No, ma perché, scusa, sono basito, ma ci sono gli orsi polari fotografati a 2 centimetri. Sì. Hanno riconosciuto il nostro direttore e anche loro partecipano. Certo, ma è incredibile, ci sono degli orsi, ma no, adesso sono stupito, perché ci sono degli orsi polari che sembra che danzino proprio tra... Sono della CIA in realtà. Sono della CIA, no. Vabbè, no, sulle orme degli orsi polari, addio Nanook, vedi che c'è il film, devo portare i bimbi, consigliato? È consigliato Nanook, sì, è bello. Sì, è un bellissimo film. Un bellissimo film documentario. Vabbè, ma ne parleremo dai più avanti. Allora, tu Paola Saluzzi hai visto il Bob Benigni? Assolutamente, pensando anche, andando... sotto certi punti di vista controcorrente con una manica di criticoni che si merita tutti i milioni, sia gli ascoltatori che esplodono ogni volta, ma cioè i numeri proprio questa cosa. Esplodono ogni volta che lui lavora, sì. E si presenta, sia tutto il resto, anche perché, e so a chi sto parlando, non vedo per quale motivo non ci sia un problema, ma giustamente, perché 11 soggetti in mutande bianche o nere che rincorrono un pallone la domenica guadagnano milioni e ci siano problemi quando un artista unico, nel senso che non ce n'è un altro simile, è un pezzo unico, capito? Mm-hmm. È come la cupola di San Pietro. Beh, bella questa polemica della Saluzzi nostra. Brava Paola, anche se io amo il calcio, no, perché è arrivato subito un messaggio: quanto è pagato Benigni alle 6:31? Ma quanto sono pagati quelli che fanno i film che andiamo ad applaudire e che ci commuovono? Quelli che fanno, che giocano al pallone, quelli che, per carità, e parlo essendo una tifosa di Vettel, ben prima che arrivasse la Ferrari, quelli che corrono in Formula 1, sì. Quelli che fanno cose che gli altri non sanno fare, quanto sono pagati? Dopodiché lo so. Benigni da solo deve risolvere il problema del PIL mondiale, ma insomma... È un po' come me, che non posso andare in vacanza perché l'Italia va a rotoli. Presidente, ho capito. L'ho detto che tu sei destinato automaticamente al Quirinale. Signor Presidente, non vada via. Ma no, assolutamente, no, ma è arrivata sì questa polemica. Benigni sarà pagato tantissimo, non lo so, sarà... Luca Dini, tu lo sai quanto è il cachet di Benigni o ti importa quanto... Lo so, però praticamente non me ne frega niente. Ha ragione Paola. Poi comunque è una polemica sterile, sempre rivolta contro le stesse persone, In fondo, voglio dire, cioè, non è che lo devi guardare per forza. Sì. No, ma perché dicono sono soldi pubblici la Rai, ma per carità, ma sono soldi pubblici, ma se gli vengono dati è perché probabilmente. Sì, poi esatto, non si sa. Gli introiti, ma come no? 10 milioni di spettatori, cari ascoltatori, sapete cosa vuol dire in termini di inserzionisti che avranno pagato? Inserzionisti pubblicitari, burca. Allora, e poi un resto, po' di vulgarità siamo... non ne hai. Non siamo forse pagati milioni da Radio 24 per alzarci a questo? Ma è ovvio, svegliamolo sotto Natale, hanno un cachet di almeno 100.000 euro a botta quando si svegliano. E attenzione, valgono anche quando, come mercoledì scorso, non si risponde al cellulare, perché comunque c'è l'impegno, l'agenda bloccata, il fastidio, l'annuncio. Bene. E quindi... Che meraviglia. Ah, perché non vi danno 100. Io avevo combattuto perché vi dessero 100.000 euro. No, ecco, lo vogliamo svelare, però Luca hai fatto benissimo a svelare, perché ogni tanto la gente arriva e ci scrive anche questa cosa. Tutte le persone che io sbrando alle 6:30 lo fanno per salute. Paola, di tu, per amore, posso allora, dire? Allora, possiamo dire che lo facciamo per una parola, perché non sentiamo di non sciupare amicizia, perché sei che bello, bravo. Che bello. Perché è bello stare con te ogni santo giorno della settimana, che ti si ascolti o che si abbia la fortuna di partecipare. Ce l'hai i violini, persona. Metti i violini, dai. No, metti no, violini. No, ma continua, metti. Senza violini, punto. No, questo ci tengo a dirlo io, perché è un ringraziamento a tutti quelli che si svegliano alle 6:30 con me, a tutti gli ascoltatori, ma a tutti i miei ospiti è assolutamente a gratis, cioè intervengono perché per il piacere di stare con noi. Perché sì. Però la telefonata la farà di 24. Esatto, quindi. La telefonata la farà di 24, per cui paghiamo la telefonata. Questo almeno sì, non ve lo chiediamo. Vabbè, sentiamo allora Crozza, dopo che abbiamo iniziato con Benigni. Ieri c'era anche Crozza, forse è stato messo un po' in ombra dal Benigni nazionale, ma anche Crozza sulle sue Olimpiadi, sul quale c'è il dibattito. Il dibattito continua sulle Olimpiadi a Roma. Vorrò sentire che ne pensano Luca Dini e Paola Saluzzi, ma Crozza disse: guarda che potrebbe essere anche l'occasione per proporre nuove discipline olimpiche, che so, l'appalto sincronizzato, le truffe dal trampolino, il patteggiamento artistico, il buzziball, l'etica leggera, lancio della mazzetta, corruzione a ostacoli. No, corruzione a ostacoli è una stronzata. Scusate, quando mai in questo paese abbiamo messo ostacoli alla corruzione? E vabbè, questo è un gran classico, il gran classicone delle specialità. Giravano già le C5 cerchi con forma delle manette, queste le ha fatti Beppe Grillo. Però vorrei capire allora, che dobbiamo fare? Criticoni, gufi? Io devo dire, secondo me le Olimpiadi c'è proprio una questione. Capisco quelli che dicono queste cose si fanno quando il paese va bene, quando c'è uno spirito unitario, non così disgregato come c'è in Italia, quando c'è una voglia veramente. Mi sa che in Italia non è proprio il momento storico adatto per lanciarsi in queste avventure. Però Luca Dini, vorrei il vostro parere. E beh, sai, 2024, cioè, ad avvenire, sì, non è che... Sì, effettivamente, come ci ha detto ieri... Andrà benissimo il paese del 2024. Andrà benissimo. Ieri De Magistris ce l'ha detto in napoletano, io non lo ripeto, ma cioè, dobbiamo arrivarci al 2024. Vabbè, però, secondo te è il momento giusto per lanciare una candidatura del genere? Dobbiamo essere, come dire, ottimisti, come dice Renzi, oppure non esageriamo? Sì, secondo me sì, bisogna esserlo, sennò cioè, ci vogliamo fare, rinunciamo a tutto, rinunciamo a esistere come paese, come... No, secondo me sì, bisogna farlo, e soprattutto, di nuovo, che noia, la polemica infinita già all'intenzione, senza nemmeno... Ma noi in Italia si piace così. È gratuito, insomma. È gratuito. Se tutto questo sforzo venisse incanalato verso qualcosa di costruttivo, avremmo già... Magari, magari. Allora, intanto Maurizio ci fa sapere dicendo: ho messo la sveglia sapendo che c'era la Paola. Pensa te. Oh. Vabbè. Maurizio, sono onorata. Insomma, onorata insomma, da ciò. Lucadini, di te a me non gliene frega niente. Ma giustamente. Non è vero. Ma diciamo le cose come stanno. Diciamo, io non ho problemi. Non so se Lucadini, io non ho problemi a dire le cose come stanno. Ad ammettere che Maurizio è qui solo per la Paola Saluzzi. Allora. Maurizio, ma vi dovete sentire tutto il resto? La popolazione femminile, per esempio, è lì per voi. Vabbè, la prendiamo per buona questa, la prendiamo per buona. Adesso, dopo che alle 6.40 è l'ora del delirio, Paola Saluzzi, vuoi tornare in te e parlare delle Olimpiadi? Delle Olimpiadi di Roma? Allora, sì. Per un attimo sono rimasta basita, ho detto le Olimpiadi, urca, e detto così come si dice, chi legge Topolino sa cosa io intenda. Poi ho pensato che le Olimpiadi del 60... che non sono nate nel 1959, voglio dire, no? Ci abbiamo lavorato un pochino prima per realizzarle a Roma, sono state il grande rilancio di un paese piegato e piagato dalla guerra. Allora, non facciamo paragoni, per carità, però se queste Olimpiadi dovessero servire, attenzione, con l'uso che hanno detto degli stessi impianti esistenti, migliorati e migliorabili, questo è chiaro, con una Olimpiade più spalmata su varie città, con un'Olimpiade che sia argomento di lavoro e di rinnovamento per un paese un po' piegato, un po' piagato da troppi guai, tu dici perché ben vengano. No? Ma io... Ci sono molti se prima. Sai, mi sono tranquillizzata quando ho sentito Cantone che diceva: vabbè, se non le facciamo per il problema della corruzione, gli facciamo il più grande regalo a quelli che vogliono rovinare questo paese. No, ma sicuramente il discorso di dire non c'è Olimpiade senza corruzione, perché c'è stata anche corruzione negli altri casi di assegnazione in tutto il mondo, allora uno dice: allora eliminiamo le Olimpiadi. Allora, oppure decidiamo che l'Italia non può fare le Olimpiadi, ma non può costruire neanche un ponte, non può costruire una fabbrica, non può costruire una strada, non può costruire una ferrovia, perché insomma, perché c'è la mafia, c'è la corruzione, non possiamo fare più niente. Questo discorso è sbagliato. Detto questo, non lo so, mi rende un po' perplesso. Insomma, questo forse è una questione solo temporale, no? Lanciarsi adesso in questo sprazzo di ottimismo. Eppure, come dice giustamente il nostro direttore, che a Roma è beato Chicianocchio nel 2024, detto così, però forse adesso bisogna farlo. A proposito di corruzione, stravince oggi l'intercettazione su Repubblica di Carminati, che parlava con un altro, e riferiscono di una telefonata a Umberto Marroni, deputato del PD, gli dicono: ma tu come stai messo? Fa: ma io vivacchio così, c'ho una barca e un cavallo. Vivacchio modestamente con la barca e il cavallo. Lo stesso Carminati dice: ah, però hai capito com'è modestamente per Marroni. Vabbè, queste sono cose che succedono. Ieri mi ero anche preoccupato perché non erano ancora spuntate le donne, ma finalmente ieri Lucadini, non so se hai visto, in un'intercettazione sono spuntate le quattro, devo dirlo come era, quattro mignotte moldave, come è stato definito, perché ero un po' preoccupato, non c'era questo aspetto per ora nell'inchiesta. Ovviamente spuntano, cioè, visto l'ambiente, visti i personaggi, infatti, questo ruolo. Ero un pochino preoccupato della mancanza di questo aspetto, che in tutte le inchieste non è mai mancato, e alla fine è arrivato. Ovviamente sto scherzando. Sentiamo a proposito delle Olimpiadi Renzi, il Presidente del Consiglio ancora ieri. Le Olimpiadi in Italia non sono semplicemente una manifestazione sportiva, sono un sogno, sono un'idea, sono un progetto che deve essere rigoroso, che deve essere tenace, che deve essere di alta qualità. Ma sentirsi dire l'Italia non può fare questo perché qualcuno non è all'altezza di questa sfida frustra non i desideri di chi è in quest'aula, ma frustra le speranze dei nostri concittadini. Vabbè, insomma, è un Renzi che ribadisce su questo. Ora, qua dovremmo aprire una pagina, perché noi lo faremo, ci occuperemo alle 8.15 di quello che è successo in Pakistan. Ovviamente io non volevo iniziare subito, perché poi mi dicono: ma insomma, bisogna iniziare anche un po' col sorriso, ed è giusto. Però quello che è successo è una cosa terribile: 140 morti, molti bambini. Reso conto dai giornali, guardate, li leggerò in rassegna stampa, ma sono una roba straziante, cioè colpi proprio alla testa, entravano e sparavano a bambini, anche un bambino di 2 anni che era lì nella scuola. Che bello. Allora, che è successo ieri che siamo riusciti in Parlamento anche a questionare su questo. Cioè c'è chi ha detto, pare a Renzi, ma occupati dei bambini italiani quando c'è stata. Renzi tra l'altro si è molto arrabbiato, ha alzato anche molto. Ha fatto bene. Ma no, su questo ha fatto bene, nel senso che io dico, ma dai, ma su, ma c'è, non c'è proprio un limite, veramente. Allora sentite Renzi sulla questione dei bambini pakistani, Trovo francamente indecente, lo dico con il massimo di rispetto, che mentre noi stiamo parlando e mi vengono in mente i bambini del Pakistan, ci sia qualcuno che dice pensa agli italiani. Oggi ci sono 130 bambini che sono morti in una scuola del Pakistan e almeno su questo avrebbe un senso non dividersi, e almeno su questo avrebbe un senso avere il rispetto umano verso delle persone che sono oggetto di un attacco terroristico. Almeno su questo dovrebbe esserci un limite alla dignità, un limite all'umanità. Ma come si fa a dire pensa ai bambini italiani? Stiamo parlando di persone che sono vittime di un attentato terroristico! Ma come si fa? Ma come si può? Ma com'è credibile? Vabbè, questo Renzi, Luca, non è che c'è molto da... Cioè, non lo so, cosa vuoi dire, insomma, siamo italiani. È meglio stare zitti, guarda. Io non voglio dire niente, francamente, di quella persona. Non so neanche... Spero solo che non abbia capito che ha detto. Sì, forse nel momento della concitazione, voglio pensare che, non so, uno dice nel momento non ha percepito esattamente cosa sta succedendo dall'altra parte del mondo, non ha letto le agenzie, non ha visto la TV. Paola Saluzzi. Ma a prescindere, è un discorso stupidissimo. Ma sì, ma certo. Sono bambini. Ma sì, ma infatti italiani no. Ma c'è questa cosa un voi po'. Voi siete così tanto buoni. Paola è molto arrabbiata, Voi siete tanto buoni. No, non è che siete tanto buoni, non è una critica, Cioè siete persone civilissime. Io credo che si debba mantenere la civiltà. Allora, se ti sei accorto di aver fatto un errore, quando è finito il legittimo cazziatone e sfogo, perché non era un cazziatone, di chi stava parlando in quel momento, che è il Presidente del Consiglio in questo caso, apri il tuo microfono e dici chiedo scusa, scusatemi, perché quello, già quello renderebbe molto bene. Dopodiché, se ti trovo, ti tiro una pizza. Come a scuola, perché non è violenza questa, è come a scuola, quando quello di turno diceva una cosa sbagliata. Io ho avuto un compagno di classe che abitava sopra di me, che una volta ha inneggiato a Hitler, capirai, a 12 anni, ma l'ha inneggiato in una maniera esagerata, si è preso una pizza. Succede. Pizza sta per ceffone, cioè se vai lì, vai davanti e pum, gliela tiri, perché gli dici che hai detto tu? Ora non so chi sia, non lo voglio sapere. Ma guarda, io non. No, vabbè, se l'avessi trovato sui giornali, adesso non so chi sia. Ce l'aveva con qualcuno del Movimento 5 Stelle. Questo ce l'abbiamo con non so chi sia, va bene, perché poi mi vuoi dire, io motivavo la cosa dicendo che i bambini italiani bisogna stare attenti. Certo. Il caro signore o signora, bisogna stare attenti. Ma sì, ma questo è il relativismo. Ma è chiaro che non è che vuol dire. Va tutelato e protetta a 360 gradi. Ma è chiaro, non è che se uno in quel momento. Ma pensa ai bambini italiani quando questi hanno ucciso, come hanno ucciso, belve, sono delle belve, perché se addirittura i talebani afghani, solo per questioni di politica, solo per mera politica e solo per mero calcolo, ma hanno fatto un passo indietro rispetto a questo gesto, gente che mozza le mani alle donne quando le trovano con lo smalto, questo fanno i talebani afghani, tra le altre cose, ma lo fanno anche gli altri, ma c'è un limite all'orrore, ieri è stato superato il limite dell'orrore. C'è un limite, su questo non c'è dubbio. Dobbiamo andare, vabbè, sì, praticamente le agenzie dicono che qualcuno dai banchi del Movimento 5 Stelle ha urlato qualcosa tipo pensa ai bambini italiani, qualcuno di non identificato. Comunque il traffico, rientriamo. 24 mattino. Porca miseria, nel giorno in cui gli italiani vengono dissanguati con la Tari, con la Tasi, con l'Imu, il sindaco di Napoli ci viene a dire che non ci sono risorse per fare le strade, per fare questo, per fare quest'altro. Ma cosa dobbiamo fare? Ma perché non vengono per casa a tirarci via un litro di sangue tutte le mattine? Alessandro, ma come? Ci sono chirurghi in Italia che operano con la goccia d'acqua mentre piove che gli bagna il capellino e lui vuol fare le Olimpiadi? Ma andatevi a fare un giro, va dai. Adesso ci mancava Renzi che chiamava Murtadella. proprio, non ci siamo più con la testa. Caro Milan, se i corrotti fanno le leggi anticorruzione, c'è da piangere. Signora Line, con tutto il rispetto che ho per voi e per la vostra trasmissione, però mo le palle stanno scoppiando con questo Benigni a mattina, elettore, vogliamo Bocatino la matriciana, basta, levo la mattina, mette Paolo Saluzzo per piacere, va, che è tutta una da cosa, va. Signore, vabbè. Grazie, ben gentile, ma è un modo, sì, un modo bello per dire che preferisce Saluzzi con questo bucatino. Tutta un'altra cosa. Mamma fa. Che già fa. Adesso cambia Paola Saluzzi con Benigni. Vabbè. Allora, va bene. Intanto vogliamo sentire prima di vedere una cosa qui che ho davanti, che mi sta guardando dall'inizio. Tu, Luca Dina, hai capito cosa mi sta guardando? Chi mi sta guardando dall'inizio intensamente? Con quest'aria. Con quest'aria. Non è un orso, no, con quest'aria. Da I want you. Vabbè, sentiamo prima Curro. Chi è Curro? Curro è uno del Movimento 5 Stelle che ha abbandonato il Movimento 5 Stelle, l'ha detto in aula e da lì è partito. Maiale, schifoso, marchettaro, corrotto. Rivendico il mio diritto a rappresentare il territorio nel quale sono stato eletto. Nei momenti in cui ho cercato di rappresentarne gli interessi, ho paradossalmente avuto più ostacoli dal movimento a cui appartengo rispetto agli altri partiti. Io voglio sentirmi sereno ed orgoglioso di lavorare per un progetto politico nel quale riconoscermi, attraverso il quale operare. Oggi, signor Presidente, questa condizione in questo gruppo non c'è più e allora, e concludo, nel comunicare il mio voto favorevole alla risoluzione di maggioranza, annuncio la mia uscita dolorosa, Presidente, dal Movimento 5 Stelle, non più evitabile! Mannaggia, da lì potete immaginarvi cos'è partito, eh? Cosa è partito, le agenzie riferiscono termini irriferibili e vabbè, è il 23esimo che lascia il Movimento 5 Stelle, 23 deputati già dall'inizio. Ma appunto io qui davanti, che sai chi mi guarda, Paola Saluzzi? I want you, dalla copertina di Vanity Fair c'è niente mi può di meno che Angelina Jolie. Ma guarda, avevi detto che fosse una donna, sai? Cioè, una donna, la donna, Angelina Jolie. Vabbè, ma vedi che allora litiga un po'. È vero che lo dice anche a voi? Che litiga, Luca Dini? Sì, però cioè, era nelle promesse nuziali. Nelle promesse nuziali, no, vabbè. No, è vero, gli hanno proprio fatto scrivere che quando litigherete farete anche la pace. No, scusa, fammi capire, cioè, hanno fatto, adesso si fanno questi accordi prematrimoniali, adesso mi stai dicendo, no, che Angelina Jolie e Brad Pitt, i figli. Cioè, hanno fatto un patto? No, spiegacela questa. Hanno chiesto nelle promesse nuziali, siccome non potete promettere di non litigare, perché sì, lo sappiamo che litigate, promettete di fare la pace. Oh, ma che teneri! Ma che teneroni! Ma che teneroni! Figli di Brad Pitt e Angelina Jolie hanno chiesto ai papà e mamma di fare la pace. Vabbè, insomma. E anche lì sono i figli di tutto il mondo che chiederebbero questo a tutti i genitori del mondo. Infatti. Leggiamolo di Angelina Jolie. No, comunque adesso, a parte gli scherzi, allora, c'è il lungo servizio che Luca Dini, il nostro direttore, ha fatto in mezzo agli orsi polari in Canada. E potete finalmente leggerlo. Quando l'abbiamo una volta, ci mandava le foto. Io sono qui, no? E ci mandava le foto. Ti ricordi, Paola? Che invidia. E noi a dire, ma non ti serviva una persona che portasse la valigia? Dico, una, esatto, anche esatto. Due. Un pesciolino per un orso polare. Cioè, buttavamo anche il cibo noi, se... non si può, non anche si può. Dei bravi ah, non si può, ecco, appunto. Io subito ho infranto la legge. Vabbè, comunque. Vabbè, poi trovate ovviamente Angelina Jolie in copertina, se non l'avete capito, ma è la copertina che guarda soprattutto me. Mentre tu, Paola Saluzzi, che farai? Se fossi tua moglie, quante botte ti darei, cretino d'un Milan. Ma no. È un ascolto. Che... non è vero, difendiamo Francesca, sa di non dover dare le botte, ecco, vabbè, questo è quanto, noi ci occuperemo politica. Di politica? Oh. E ci occuperemo di politica e ci occuperemo di politica. Oh. Questo è quello che faremo. Di politica. E d'altronde è giusto fare così, perché è ciò che dobbiamo, condita di tutto. Ma è certo, sentite un po', vi devo fare questa domanda, ma mercoledì prossimo, che è il 24, io sono qui, voi ci sarete? Certo. Luca... Luca ha risposto. Luca Dini, ci sarai? Ci sarai. Hai già messo la sveglia. Hai già messo la sveglia, ma puoi anche cambiare idea, perché questa tua titubanza mi fa meditare molto. Quindi puoi anche pensarci fino a martedì, non c'è problema. Intanto io vi mando un abbraccio, vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima. Grazie. Grazie. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:17 minuti. Forza, forza, che per quel che mi riguarda mancano 5 sveglie alle 5 e poi c'è il Natale. 5 sveglie alle 5, poi ci risentiremo da questi microfoni l'8 di gennaio, dal 24 dicembre all'8 di gennaio. Fate i conti, sono tanti giorni. Dipende, tanti o pochi. Comunque parleremo oggi ovviamente di quello che è successo in Pakistan, questa terribile tragedia che vedremo raccontata anche dai giornali. Avremo ospite Fausto Biloslavo, avremo ospite anche l'ambasciatore italiano in Pakistan, Adriano Chiodi Cianfarani. Questo dalle 8:15. Parleremo anche di quella vicenda di cui abbiamo raccontato ieri le cronache del giornale, incredibile, di un maestro condannato, un signore condannato per pedofilia, che ora è diventato docente di ruolo, insegna matematica a Torino in una scuola media. Questo raccontava ieri il giornale. Avremo l'avvocato della famiglia della ragazza, o meglio oggi ragazza, che da bambina subì questa violenza e per la quale il maestro è stato condannato in via definitiva. Abbastanza incredibile, ma così è. Intanto andiamo a leggere i giornali. In questo mercoledì 17 dicembre Il Sole 24 Ore apre sulla crisi economica della Russia e la vicenda del rublo. Rublo ancora in caduta libera, i mercati puntano sulla Fed. Questo è il titolo di prima pagina. Poi la vicenda Pakistan è in prima pagina sul Corriere della Sera. I bambini inseguiti e uccisi a scuola. Attacco dei talebani in Pakistan. 145 vittime. Così anche per Avvenire, la strage degli innocenti. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre c'è chi apre comunque su vicende italiane come Repubblica, Napolitano blinda Renzi, bene le riforme. Oppure il Fatto Quotidiano, derby Padoan-Severino. Questo sarebbe il derby per il Quirinale, Padoan-Severino. La Stampa, Napolitano avverte, evocare lezioni crea instabilità. Mentre Il Messaggero ha un'intervista proprio a Padoan. Privatizzazioni, ecco il piano. Questo è il titolo di prima pagina. Il testamento di Napolitano è l'apertura del giornale. Mentre Libero, governo senza Marò, che è riferito ai Marò, ma anche, come dire, la tocca piano. Libero, governo senza Marò. Il Manifesto invece, scuola talebana, questo è il titolo, con una foto di mamme disperate in pianti per la perdita dei loro figli. Figli che sono stati uccisi, e uccisi brutalmente, come raccontano nelle cronache i giornali di oggi. Ripeto, apertura, in realtà anche Repubblica, una doppia apertura, c'ha questa foto, e questa foto che c'è anche sul Manifesto, di le mamme disperate, urlanti, si abbracciano davanti alla bara di uno dei figli uccisi. Pakistan, la furia dei talebani, strage di bambini a scuola, racconta Daniele Mastrogiacomo a pagina 2 di Repubblica. Quando abbiamo sentito i primi spari provenire dall'esterno dell'aula, siamo rimasti tutti paralizzati, in silenzio. La porta si è spalancata con un botto, hanno fatto irruzione, hanno iniziato a sparare raffiche. Su tutti, sugli studenti, sui professori. È morto anche un bambino di 2 anni, lo aveva portato in classe uno dei nostri colleghi. Così racconta Ali Perwaz, 14 anni, in classe per un esame di chimica. Lui non lo scorderà più. La mattanza che cambia per sempre la storia del Pakistan inizia alle 10.30 e dura 9 ore. Solo nel tardo pomeriggio, col buio che avvolge la periferia di Peshawar, i corpi speciali dell'esercito hanno ragione sul comando, tutti e 9 i componenti uccisi, e nessuno li chiama terroristi. Per farlo bisogna avere coraggio. Sono militanti del Tehreek Taliban, il TTP, autore del massacro più sanguinoso e imponente dal 2007, con 141 morti, di questi 130 studenti. Forse sullo sfondo di questa spaventosa strage si staglia una lotta tra i generali dell'esercito e il governo civile del premier Rael Sharif, una parte dei primi riluttanti a proseguire l'offensiva contro i santuari dei talebani del Waziristan del nord. Il secondo è deciso ad andare a fondo per risolvere una volta per tutte il vero nodo che sta strozzando il Pakistan. Certo, però, le testimonianze terribili che continuano in questo articolo di Mastro Giacomo, ero seduto in corridoio, ricorda con un filo ancora Amara Lee, studente del secondo anno di ingegneria a scuola. Con me c'erano altri 10 compagni, abbiamo sentito gli spari, i militanti entravano in tutte le stanze, gridavano e sparavano sui primi che incontravano, un tiro al piattello. Alla fine hanno trovato anche noi, ci hanno ghiacciato con uno sguardo e poi hanno sibilato: leggete il Kalma, cioè il versetto di fede all'Islam. E ancora Mudassar Abbas, assistente del laboratorio di fisica. Gli studenti stavano festeggiando un esame appena sostenuto. In quel momento l'attacco. Il gruppo, composto da 6-7 persone, uno si è fatto esplodere, ha provocato una carneficina. Giravano per le classi, entravano e sparavano su tutti, anche sui bambini. E quando si è riusciti a uscire abbiamo visto i corpi dei nostri compagni nei corridoi. Insomma, una vicenda che dura 9 ore, racconta tra l'altro il Corriere della Sera pagina 3 con Andrea Nicastro. Chi è l'uomo? L'uomo che tiene in mano questi TTP, questi talebani pakistani, l'uomo che ha rivendicato la strage è Maulavi Fazullah, il Mullah Radio, terzo leader dei talebani pakistani. I primi 2 sono stati uccisi dai droni americani. Fino a ieri era famoso per gli appelli incendiari via etere durante gli scontri nella valle di Swat, per aver ordinato la spedizione punitiva contro Malala, la bimba che è diventata poi premio Nobel, e per nascondere anche il dottor Zawahiri, il nuovo numero 2 di Al-Qaeda. Ha 40 anni e per uccidere questo Mullah Radio, come è chiamato, fa la strada opposta dei talebani afghani. I guerriglieri del Mullah Omar colpiscono in Afghanistan e si addestrano e rifugiano in Pakistan, mentre gli assassini del Mullah Radio si nascondono in Afghanistan, nell'Uristan, nel Kunar, e uccidono in Pakistan. Per la verità, gli stessi talebani afghani hanno criticato questo eccidio di Peshawar, dicendo: l'Emirato Islamico è scioccato da questa vicenda. Questione di politica anche e di diatribe tra di loro. Sta di fatto che la cronaca è davvero terribile, noi ne parleremo alle 8.15, come ancora c'è molto sconcerto per quello che è successo in Australia, dove un uomo, sapete, a Sydney si è barricato per ore e poi è stato freddato, ma sono morte anche 2 persone nel blitz delle forze dell'ordine. Proprio su queste 2 persone che sono rimaste uccise si concentra il Corriere della Sera. Roberta Giaconi racconta le storie di Katrina Dawson, 38 anni, 3 figli, una carriera brillante come avvocato, e di Tori Johnson, 34 anni, che era il manager della cioccolateria dove è avvenuta la strage. Entrambi vengono definiti dai sopravvissuti degli eroi. Lei, avvocato, avrebbe fatto da scudo a una collega incinta quando sono partiti i colpi di arma da fuoco, mentre Tori Johnson avrebbe tentato di disarmare il sequestratore, che aveva una pistola. A un certo punto, quando Ha avuto un attimo di incertezza il sequestratore. Tory Johnson gli si è buttato addosso, ma è partito il colpo di pistola che lo ha ferito mortalmente. Questo però ha dato il via alle teste di cuoio come segnale per dire sta succedendo qualcosa, è il momento di intervenire, e in quel momento sono intervenuti. Purtroppo però, ripeto, oltre al sequestratore sono morte due persone, due australiani che erano lì. Vabbè, l'attualità internazionale molto legata all'Italia ci regala anche tutta una pagina legata ai Marò. Cosa succede? Un altro schiaffo dall'India all'Italia, perché ieri si aspettava con grande serenità la decisione della Corte Suprema indiana su una richiesta da parte di uno dei due Marò, vale a dire Girone, di poter avere la licenza per passare il Natale in Italia. Sapete che l'altro, la Torre, è già per motivi di salute in Italia. Il ministro della difesa Pinotti dice non tornerà a Delhi, ci opporremo per motivi di salute, ma soprattutto Girone gli è stata negata questa licenza, e c'è la sorpresa espressa anche dal capo dello Stato, la sorpresa del ministro degli esteri Gentiloni, la sorpresa del ministro della difesa Pinotti per una decisione inaspettata. Oggi il più duro a parlare su questo tema è Giulio Terzi, che è l'ex ministro degli esteri del governo Monti, e lo fa con Libero. Giulio Terzi dice lo schiaffo peggiore con noi alla presidenza europea. Ricordate che Giulio Terzi era colui che li portò in Italia per una licenza di Natale sotto il governo Monti, poi voleva tenerli qui, ma il governo Monti ordinò, insomma, dovevano rientrare in India, e così fu. Insomma, non torneranno per Natale. Sentite cosa dice Giulio Terzi, intervistato da Paolo Emilio Russo. Non mi spiego cosa impedisca al governo di muoversi in maniera trasparente. Che interesse c'è a non fare ciò che è previsto dal diritto internazionale? Se non ce lo spiegano chiaramente, viene il sospetto che si tratti di interessi torbidi e di malaffare. Cioè, così parla uno che è stato ministro degli esteri, quindi le cose dovrebbe anche saperle, fino a qualche anno fa. A che genere di malaffare pensa Terzi? Ma ho letto di commesse internazionali, come tutti, dai giornali, anche se non ho le prove. Così come ho visto un vulcano di errori delle inchieste romane che rivelano collegamenti tra criminalità, immigrazione, con personaggi ambigui che sedevano ai tavoli del Ministero dell'Interno. Quel 23 marzo in cui decisero di rimandare i due militari in India, visto col senno di poi, è accaduto qualcosa di molto losco. Renzi aveva la possibilità di togliere la polvere dal tavolo, ma non l'ha fatto. A che cosa si riferisce il ministro, ex ministro Terzi? Vorremmo saperlo, perché uno più alto in grado di lui, io non lo conosco, che ha gestito il dossier, e parla di cose losche successe quando lui era ministro e quando furono rispediti i Marò in India. Non so, magari glielo chiederemo anche domani, se ha piacere. Intanto siamo al momento del premio Mani sul Volante, l'articolo ci fa pensare di questa giornata, e veniamo alle vicende proprio italiane, dove Paolo Bracalini e Maria Teresa Conti sul Giornale raccontano ciò che Cottarelli nelle carte aveva messo riguardo alle partecipate, le società partecipate. Eccolo qui, pagina 7 del Giornale: dai polli agli alberghi, ecco la galleria degli orrori delle società in perdita. State tranquilli, tanto sono in perdita, ma sono semi pubbliche, quindi pagate sempre voi. Sono società partecipate. Quella che è più in perdita è la GAM. La GAM della regione Molise, patrimonio di 2 milioni, perde 14 milioni e mezzo. Oppure, subito dopo, la holding del comune di Parma, la STT, voragine da 27,9 milioni. E al terzo posto sul podio delle società più grosse, la cagliaritana Tecnocasic SPA, smaltimento rifiuti, 4,6 milioni di rosso. Insomma, l'elenco delle aziende che perdono, con tutto l'indice di redditività, una della gestione agroalimentare molisana, sapete che indice di redditività ha? Questo, il -691%. Tanto è pubblica, pagate voi. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Dall'invenzione della ruota alla rassegna stampa di 24 Mattino, Alessandro Milan, l'evoluzione della specie. Vabbè, vabbè, si può anche fare di meglio, ma ringraziamo questo grandissimo ascoltatore, un forte abbraccio e... Il tono è quello del racconto della politica dai giornali. Dirò solo due o tre cose. Vabbè, ieri Napolitano ha parlato, ha detto che le riforme sono ineludibili, ha detto che le voci di voto destabilizzano il paese, le voci di scissioni e di voto non sono dannose per il paese. C'è il dibattito sulla corsa al Quirinale. Il Fatto Quotidiano dice che la corsa al Quirinale si stringerà a due tra Paola Severino, ex ministra della giustizia, e l'attuale ministra dell'economia Padoan. Repubblica scrive in un retroscena che il premier Renzi ha una strategia, che è quella di far approvare la legge elettorale entro il 23 gennaio, perché così nel frattempo, forse a metà gennaio, si è dimesso Napolitano e quindi prima la legge elettorale e poi la vicenda della successione di Napolitano. Però sulla legge elettorale ci sono 17.000 emendamenti, come ricorda Repubblica, mentre il Corriere della Sera, con Maria Teresa Meli e Francesco Verderami, fa sapere che sul Colle, cioè sulla successione a Napolitano, regge il patto del Nazareno. Insomma, non mi sembra una cosa veramente di quelle trite, ritrite, ogni giorno, io lo dico sempre, lo so, comincia a diventare noioso anch'io, ogni giorno lo stesso teatrino degli articoli della politica, in cui invece di chiamarsi i politici utilizzano i giornali per parlarsi tra di loro. Insomma, com'è Oscar Giannino? Basta! Basta! Basta! Passiamo alle cose un po' più concrete. Il ministro dell'economia Padoan fa un'intervista oggi al Messaggero. Poste, Enav, Ferrovie, le privatizzazioni del 2015. È l'intervista che Osvaldo De Paolini fa al ministro Piercarlo Padoan. Si parla anche della Russia. Bisogna preoccuparsi il giusto, ma senza esagerare, perché se è vero che le criticità russe possono incidere temporaneamente sull'economia europea creando qualche difficoltà, dalla caduta del prezzo del greggio l'Italia potrebbe ricavare soprattutto benefici. C'è una scuola di pensiero secondo la quale un petrolio stabilizzato attorno a $60 produrrebbe una crescita dello 0,5% del nostro PIL. Guarda anche alla Grecia, Padoan dice che la situazione lì politica indubbiamente è delicata, ma la situazione in Europa è molto diversa da quella del 2010-2011. Quindi, chiede il Messaggero, non ci sarà bisogno del bazooka di Draghi per salvare l'euro? Le ragioni per le quali la BCE scenderà probabilmente in campo sono svariate. Per esempio, il tema della deflazione in tutta Europa va affrontato con decisione, le crisi locali vengono dopo. Poi Padoan parla delle privatizzazioni. Niente più collocamenti di Eni o Enel? Per il momento abbiamo in programma soltanto una quota di mercati nei quali una quota di Enel. Naturalmente il timing verrà deciso in considerazione del trend di borsa. Come sempre l'obiettivo è valorizzare al meglio e non svendere. C'è un altro obiettivo: le privatizzazioni migliorano l'efficienza delle aziende e dei mercati nei quali operano. Poste, Enav, Ferrovie, avete già deciso la percentuale di capitale che verrà quotata? No, risponde Padoan, ma presumibilmente si tratterà del 40% di Poste, del 49% di Enav e di una partecipazione non lontana dal 40% di Ferrovie. E poi ancora altri temi, come la questione degli 80 euro. Lei, che è uomo di economia, pensa davvero che gli 80 euro in più nelle buste paga di un lavoratore possano bastare a rilanciare i consumi? Risponde Padoan: intanto in non poche famiglie dove lavorano in due non arrivano 80 ma 160 euro. In secondo luogo, pagati i debiti che possono essersi accumulati nella fase peggiore della crisi, è difficile immaginare che quei denari non vengano spesi. C'è anche infine una battuta, o meglio una non risposta, proprio in conclusione, quando Osvaldo De Paolini chiede: per restare, lei sa che circola il suo nome tra i candidati alla successione di Napolitano? La risposta di Padoan è una contenuta risata e una calorosa stretta di mano. In questi casi il protocollo vuole che non si dica niente. Se uno dice una parola rischia di bruciarsi, eh? E quindi niente. Certo, manca la domanda a Padoan, ma sì, ci sono tante domande, poi uno è che può fare lo scibile delle domande. Però manca la questione dei comuni alluvionati, che ancora oggi torna sui giornali. Ovviamente il secolo XIX si concentra a dire come mai il governo pretende che lunedì i comuni alluvionati paghino le tasse che erano state per il momento sospese e rinviate. Ora l'appello è ai comuni stessi, sono i comuni che potrebbero in qualche modo rinviare il pagamento di IVA, IRES, IRPEF e IRAP entro il 22 dicembre in un'unica soluzione. C'è il pressing, però il governo, come scrive il secolo XIX, rinviate le tasse, è anche libero. Come umano il governo chiede tasse agli alluvionati? Ma come è possibile? Ebbene sì, si sono chieste tasse agli alluvionati, o meglio, le tasse che dovevano dare, che però erano state sospese, ma che ora ritornano. C'è poi tutta la vicenda ancora di Roma e l'inchiesta di Roma. Il Fatto Quotidiano va nel paese di Carminati a cercare qualche traccia a Sacrofano, dove però tutti dicono Carminati chi? Cioè fanno quasi finta di non conoscerlo. Vabbè, è un viaggio che trovate di Silvia Donghia e Mauro Episcopo a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Pare che Carminati fosse uno sconosciuto per tutti, ma stravince nelle intercettazioni nell'articolo di Repubblica di Daniele Autieri e Carlo Bonini dal titolo Le mani del clan sui bus. Ebbene sì, perché pare che avessero messo le mani anche sull'ATAC, quella società dei trasporti pubblici a Roma che voi tutti oggi romani considerate un esempio di efficienza, no? Con gli autobus sempre puntuali, tutti precisi, tutti che non saltano una corsa, lo so, vi sento. Ebbene, pare che a Mafia Capitale avessero messo le mani anche sui bus, gli appalti dell'ATAC decisi dall'uomo della cupola. E qui nell'articolo a pagina 20 c'è l'intercettazione madre, l'intercettazione delle intercettazioni. C'è Carminati che parla con qualcuno e dice: a un certo punto chiamiamo subito il capo Umberto, si riferiscono a Umberto Marroni, deputato del PD. Gli ho detto: ma tu la sai sta cosa di comprare degli appartamenti? E lui mi fa: ah, io pure vivo modestamente, c'ho una barca e un cavallo. Anche Carminati si fa ironica: vivono modestamente, capito? Stava parlando con Buzzi. C'ho una barca e un cavallo. L'onorevole Marroni vive modestamente così, con una barca e un cavallo. Chi non ha un cavallo, chi non ha una barca e può dire di vivere modestamente? Mauro Meazza, per esempio, di 2 o 3 di cavalli e 3 o 4 di barche, credo. Buongiorno, non ho capito se è un invito a darmi all'Ippica questo riferimento ai cavalli. O alla vela. È estremamente attuale, perché sai, oggi con il Sole 24 Ore diamo proprio un supplemento che è dedicato al riccometro, cioè l'ISEE, come si chiama in termine più elegante, proprio all'anagrafe della burocrazia, è noto così, indicatore della situazione economica equivalente, cambiano le regole dal 2015 e noi lo spieghiamo. Adesso provo a vedere subito se riusciamo a capire quanto valgono barca e cavallo, così vediamo come si può stimare il possesso delle tue proprietà. Tu quanti cavalli hai, Alessandro? Io nella macchina adesso non no, ma penso che siano quelli proprio gli equini, no? Con le briglie. Sì. Quelli lì, insomma, no? O no? Non sì, so, anche guarda, perché un cavallo nella macchina non sarebbe. Non dovrebbe andare molto lontano così a occhio. No. Comunque adesso prova a guardare anche tu sul nostro tabloid, sul supplemento che diamo oggi col Sole 24 Ore, sul riccometro, così ci facciamo un attimo le misure su questa, sulla barca e il cavallo. Invece dalla barca alla banca, facendo una specie di passaggio da settimana enigmistica, vorrei ricordarti che parliamo anche oggi del contratto dei bancari, che come sai sì, come dire, trascina in trattative abbastanza complicate, e c'è l'ipotesi di una sospensione della disdetta a fine anno, ma insomma tutti i particolari non caro Alessandro, attenzione, nelle pagine Norme e Tributi, bensì in quelle di Impresa e Territori, dove potrai anche apprendere e c'è una, come dire, una frenatina nella ripresa delle vendite di automobili che sembravano averci dato dei segnali positivi. Invece migliora un po' l'erogazione dei prestiti, e questo l'ho letto sempre sul Sole 24 Ore, ma nelle pagine di Finanza. E poi che altro dirti? Guarda, ti vorrei solo segnalare per chiudere che se tu continui a fare avanti e indietro dalle zone a traffico limitato, che pare che si chiamano ZTL, sì, e ogni passaggio paghi una multa. Eh beh, certo. La Cassazione è su quello, non è che se lo fai lo stesso giorno, vabbè, fa niente, lo faccio 10 volte e pago una multa sola. E no, la Cassazione ha detto, non si può mica fare. Mi sembra anche però una cosa abbastanza banale, che io davo per scontato. Però no, c'è tutto un punto giuridico. Ma in Italia è tutto banale, in Italia c'è il punto giuridico. Fai un'infrazione 10 volte, sono 10 multe, voglio se dire. Tu la fai per entrare e uscire, uno potrebbe dire, vabbè, ma insomma, alla fine la stessa infrazione. Effettivamente entrare e uscire è un po' una bastardata farne pagare sul due. Sul punto è stata severa, ha detto no, c'è una signora, un automobilista, si è beccata 94 multe, penso che sia un record, forse anche di era valore di quelle europeo. Che non sapeva andare, vado avanti indietro, indietro un po', entravo, usciva, entra, zac, 94. Guarda, secondo me le conveniva comprare un cavallo o una barca, esatto, questa signora qua, così col cavallo magari non aveva problemi nella zona traffico limitato. Vabbè, vabbè. Tutto questo per pronunciare la fatidica parola e ci risentiamo domattina, caro Alessandro. Traffico. This is George Clooney and I also like listening to 24 Mattino. Oh, finalmente è tornato George, un buon Natale anche a te, ad Amal e a tutti i tuoi familiari. Grazie George, anche noi ti seguiamo sempre con grande passione. Allora, sapete che ieri uno del Movimento 5 Stelle, ed è il 23esimo del Movimento dei Deputati, ha lasciato con un annuncio in aula, cioè ha detto voterò un provvedimento del governo e con questo lascio il Movimento 5 Stelle. Si è subito scatenata, insomma, una bufera, insulti, Marchettaro, traditore, Nuovo Razzi, Marcio, Lecchino della Casta, fai schifo, verme, bastardo, questo scrive Alessandro Trocino sul Corriere della Sera. Sono alcuni degli epiteti che si è sentito dare in aula, qualcuno come il deputato Sibilia, racconta Repubblica, parla esplicitamente di rischio di corruzione da parte del PD, anche questa è corruzione, in questo caso corruzione evidentemente di parlamentari. Poi che succede? Ecco, questo è lo scenario classico della politica italiana, racconta il giornale, lo spettacolo di livello che potete definire voi con quello che vi sto per leggere, si è spostato poco dopo, appena fuori dall'aula. Quando, finita questa vicenda, Ignazio La Russa incrocia Walter Rizzetto del Movimento 5 Stelle. Ti brucia, dice La Russa, te ne deve andare, imbecille, al che Rizzetto risponde, ma vattene tu che sono 30 anni che sei qui, coglione. A un certo punto si inserisce il deputato di SEL, Adriano Zaccagnini, e dice alla Russa, ma tu, maiale, mi riferisco alla fattoria degli animali, quanti incarichi hai dato a tuo figlio? E a questo punto la Russa dice, ma chi è questo sfigato? E venendo a sapere che è un deputato di SEL, dice, ah, è chiaro, è un comunista di merda. Poi interviene Fabio Rampelli, al quale Zaccagnini di SEL si rivolge così, a te ti conosco, stavi a fare i banchetti coi comitatini per chiedere le dimissioni di Marino, ma stavi a magnaco sta gente. Vabbè, questo è ciò che è successo a corollario della vicenda delle dimissioni di Currò, che lascia il Movimento 5 Stelle, e Alè, lo spettacolino poi fuori. Mentre se dobbiamo parlare di TV, beh, la notizia del giorno certamente proviene da questa TV albanese, Agon Channel, che è stata messa in piedi dall'imprenditore Becchetti in Albania e che ha raccolto molte star, anche Sabrina Ferilli, Simona Ventura, è andata anche Luisella Costamagna, altre persone. E che succede però? Dopo 2 settimane sole, il direttore delle news, Antonio Caprarica, lunga esperienza in Rai, si è dimesso. e si è rimesso con delle accuse pesantissime. Lo fa per esempio a Repubblica, oggi parla, dice ma si lavorava nei container. Ma come nei container? Eccolo qui, Cristiana Salvagni lo raggiunge con Agon Channel. È stato come salire su un antico galeone spagnolo, racconta Caprarica. Sul ponte ci sono le cabine di broccato per le star della TV che vengono dall'Italia a registrare un giorno a settimana, e sotto l'equipaggio dei rematori con la catena al collo, frustati dal nostromo, cioè noi della redazione news e i tecnici. Ho fatto di tutto per garantire news, approfondimenti, 10 edizioni al giorno, ma gli strumenti erano inadeguati, un grande tavolone per 11 persone, un solo telefono, le salette di montaggio nei container all'aperto dove quando piove entra nel microfono l'effetto tic tic tic della pioggia, turni da 12 ore, un TG registrato un'ora e mezza prima perché la trasmissione passa da Roma, tutto inaccettabile. Addirittura in un TG abbiamo detto che erano stati precettati i ferrovieri, ovviamente tutto registrato, ma dopo mezz'ora arrivò la notizia che la precettazione era saltata e quindi ho dato una notizia falsa proprio perché dovevo registrare. Becchetti accusa Caprarica di essere abituato ai metodi della RAI con evidentemente anche sfarzi. Questa è l'accusa di Becchetti. Caprarica risponde: forse è abituato lui a questo. Fa anche un'intervista a Italia Oggi Caprarica, nella quale dice: forse è lui abituato agli sfarzi, visto che gira con un'Audi blindata escortata da vetture con guardie del corpo, racconta Caprarica Italia Oggi. Effettivamente questo personaggio Becchetti gira così, questo almeno racconta il giornale a pagina 17. Il giornale fa una pagina e racconta con Riccardo Pellicetti chi è Leonardo Becchetti. Becchetti l'italiano, quante ombre sul re delle antenne, ha fatto fortuna con l'energia ma ora che i conti non brillano fa soldi grazie a un tribunale albanese, con anche strane coincidenze, i successi milionari sono grazie alle cause. Però uno dei giudici di Cassazione che gli diede ragione in una causa precedente contro Enel Power era suo legale. Insomma, una vicenda, racconta il giornale, un'intera pagina su questa figura, su questo imprenditore Leonardo Becchetti, 48 anni, romano, in 2 settimane passato da sconosciuto a VIP per questa Agon Channel, e si racconta un po' chi sia a pagina 17 del giornale questo personaggio. Vabbè, devo dire che il Fatto Quotidiano invece si concentra con Gianni Barbacetto e Marco Maroni con un'accusa, e cioè questa: Expo a Farinetti senza gara, l'osteria più grande del mondo. L'accusa è questa, secondo una segnalazione della Corte dei Conti. Verranno affidati a Italy di Farinetti 20 ristoranti in 2 padiglioni dell'Expo, ma su incarico diretto e senza gara. Ma siamo al momento conclusivo. L'articolo più inutile scovato sui giornali oggi va al Giornale con Massimiliano Parente, che elenca i 15 propositi dell'anno nuovo, forse 10 che non rispetteremo mai, tipo imparare una nuova lingua, perdere peso, mangiare sano, leggere più libri, guardare meno TV, bere di meno. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. They were killed in their school uniforms, taking exams in classrooms, a first aid course in the school auditorium. It was an attack many people in Pakistan had feared would eventually come. At least 120 people are dead. A majority of those are kids between the ages of 12 and 16 years old. Allora, voci e reportage dal Pakistan. Il comando di 6 talebani che ieri ha fatto irruzione in una scuola a Peshawar in Pakistan, uccidendo a caso, uccidendo chiunque si trovasse di fronte, anche bambini, soprattutto bambini, sono stati uccisi un centinaio, aveva munizioni sufficienti per resistere giorni, questo ha detto la CNN. E insomma, evidentemente si faceva bene ieri ad associare questa immagine a quello che era successo, vi ricordate, a Beslan, qualche anno fa, nel 2004, nell'Ossetia del Nord, una vicenda diversa ovviamente. Lì un gruppo di separatisti ceceni entrò in una scuola tenendo in ostaggio bambini per giorni. Alla fine ci furono centinaia di bambini uccisi e centinaia di morti dopo che le forze speciali russe fecero irruzione. È successo questa volta in Pakistan. L'orrore raccontato dai giornali, dalle testimonianze di chi è sopravvissuto e dice: sono entrati mentre facevamo lezione in questa scuola militare a Peshawar e hanno ucciso a caso anche un bambino di 2 anni. La rivendicazione è stata di questo gruppo dei talebani pakistani, che erano coloro per esempio che avevano già posto l'assalto nei confronti di Malala Yousafzai, ricordate quella ragazzina che studiava e che poi ha vinto il premio Nobel per la pace. Parliamo di questo, di una terra lontana ma di una tragedia davvero vicina, che a raccontare quello che si legge nei giornali, tra l'altro, è ancora più odiosa perché le persone uccise sono in gran parte per l'appunto bambini. 145 sono i morti finora che si contano, 100 bambini. Con noi c'è Fausto Biloslavo, che saluto, collega, giornalista di guerra. Buongiorno Fausto, tra l'altro ricordiamo anche l'iniziativa di crowdfunding Gli Occhi della Guerra.it che hai lanciato anche con altri colleghi, che con questa nuova formula del crowdfunding permette di andare a raccontare queste cose. Tra poco ci racconterai anche chi sono gli autori che hanno rivendicato questa strage. Prima però voglio salutare Fausto, è con noi, lo ringrazio, l'ambasciatore italiano a Islamabad, dunque in Pakistan, l'ambasciatore Adriano Chiodi Cianfarani, che saluto, buongiorno ambasciatore, grazie di essere con noi in diretta. Intanto le chiedo come si è svegliato il Pakistan oggi. Già lo sdegno di ieri mondiale è stato raccolto ed è stato unanime. Questa mattina i giornali, le TV, che cosa raccontano? Sono unanimi nel raccontare di un paese sotto shock per l'orrore di questo attacco di ieri. Le vittime che sono... correggerle, purtroppo sì. I bambini morti sono 132, ecco. ad oggi sì. 132 e le vittime totali sono 141. Sono i dati ufficiali dell'esercito. Senta ambasciatore, la CNN ha raccontato appunto che questo comando aveva munizioni per stare giorni, quindi si parlava proprio evidentemente di un'iniziativa terroristica in piena regola. Ci racconti Peshawar che zona è, che cosa è stato colpito e come hanno reagito il governo pakistano? Peshawar è la capitale di una delle regioni del Pakistan, quella maggioranza Pashtun, già in passato è stata colpita da altri attentati terroristici. Come ha reagito il governo pakistano? Intanto vorrei dire che il primo ministro e il capo di Stato Maggiore dell'esercito si sono subito recati sul posto, intanto per una prima testimonianza di vicinanza e solidarietà alle vittime e anche per una immediata riunione di sicurezza. Il governo poi ha subito convocato quella che qui chiamano una all party conference, diciamo un incontro di tutti i partiti in un afflato di solidarietà nazionale al quale nessuno si è sottratto, neanche il partito di Imran Khan, il PTI, che per domani aveva previsto di bloccare il paese nel quadro della sua battaglia per arrivare ad una commissione giudiziale che investigasse sulle eventuali brogli delle elezioni politiche del maggio 2013. Quindi in questo momento sta prevalendo una fase, come dire, di solidarietà nazionale. Ad oggi le divisioni interne sono state messe da parte, prevale il senso di sgomento per quello che è avvenuto ieri. Le chiedo ambasciatore, chi ha rivendicato questo attentato ha detto: vogliamo che i pakistani soffrano la stessa cosa che stiamo soffrendo noi. Ci può aiutare a capire il senso di questo tipo di rivendicazione? Sì, in realtà la frase era diretta all'esercito. Sì. È stata colpita una scuola dell'esercito. E però colpendo bambini indiscriminatamente, voglio dire. Colpendo bambini indiscriminatamente. Ma per l'attacco di vendetta e ritorsione nei confronti delle operazioni militari dell'esercito nel Nord Waziristan, operazioni che si sono avviate a metà del giugno di quest'anno. e che hanno appunto colpito i vari gruppi del terrorismo locale, fra cui appunto in primis naturalmente il TTP che ha rivendicato l'azione. Esatto, per questo è stata identificata questa scuola militare. Fausto Biloslavo, chi è questo TTP? Che formazione è? È la stessa che è diventata famosa soprattutto a livello mondiale per l'attacco a Malala, che poi è stata insignita del premio Nobel. Ma chi sono? Intanto c'è da dire che non sono i talebani afghani, c'è da fare una distinzione. E tra l'altro mi risulta, almeno per alcune loro frange e fazioni, che hanno preso le distanze da questo orribile massacro. I talebani pakistani sono la serpe in seno del Pakistan, perché la verità è che nonostante adesso l'esercito si presenti a Peshawar e pianga lacrime il coccodrillo, questi signori sono stati, e forse lo sono ancora in parte, da alcune frange dei servizi segreti militari pakistani anche appoggiati e aiutati, almeno all'inizio. Sono nati nel 2007, composti, in realtà sono una serie di gruppi che poi hanno subito vari cambiamenti, scissioni, ma fra questi per esempio ci sono anche le forze di un signore leggendario che io ho conosciuto ancora ai tempi di quando combatteva con i sovietici, Jalaluddin Akhani. Ormai sono i suoi figli che comandano il gruppo. Jalaluddin Akhani è un uomo dei servizi segreti militari pakistani, sta nel nord Waziristan. Ecco, l'ambasciatore giustamente, per motivi anche diplomatici, ha spiegato che questa offensiva dell'esercito si chiama colpo tagliente ed affilato, così è stata per sgominare questi talebani, per sgominarli senza andare troppo persuasive, nel senso che i bombardamenti anche d'artiglieria, chi piglio piglio, insomma, quindi piglio anche i civili, piglio anche le famiglie di questi qua. Per questo motivo, ovviamente non è assolutamente una giustificazione, questi hanno reagito colpendo proprio i figli, i bambini dei militari. Questo dobbiamo leggerlo quindi come una terribile ritorsione che però rimarrà drammaticamente a livello macro locale, diciamo così, Fausto? Diciamo che però questi signori, questi tagliagole sono pericolosissimi, sono quelli che hanno ammazzato, non so se le ricordate, l'ex premier pakistana Benazir Bhutto, sono quelli che cercate di far saltare per aria una macchina minata a Times Square a New York. Quindi, come dire, non sono focalizzati solo nelle aree tribali, che è veramente una giungla a ridosso fra Afghanistan e Pakistan, una zona impenetrabile anche per l'esercito pakistano. Sono quelli che vengono colpiti uno dopo l'altro, i vari leader, dai droni americani, centrati, mirati dai droni americani, che travolta assieme ai leader appunto fa saltare per aria anche i villaggi, insomma, di questi leader. E adesso il loro attuale capo del 2013 si chiama Mulawi Fazullah, ma viene chiamato, forse avrà dimenticato, può interessare, Mulla Radio. Ma questo io oggi l'ho letto sui giornali, perché viene chiamato Mulla Radio? Viene chiamato Mulla Radio perché lui nasce proprio nella Valle dello Swat, dove tra l'altro è stata quasi ammazzata Malala, la ragazzina, sì, che aveva raccontato che adesso è diventata Nobel per la pace. È stata ammazzata proprio perché raccontava con un diario la lotta di bambini e delle bambine pakistane per andare a scuola, perché questi non vogliono mandare le bambine a scuola, no, per questa l'hanno cercato quasi di ammazzare perché le hanno sparato in testa. Però diceva che questo qua viene chiamato così perché è nato, è diventato anche famoso grazie a una sorta di furgoncino con dei ripetitori, perché altrimenti lo individuano se hanno una postazione fissa, se hanno una stazione fissa, e quindi la distruggono, e girava per queste zone tribali, soprattutto per la Valle della Swat, lanciando messaggi della Sharia, no? Questa era radio Sharia, messaggi dell'Islam integralista e così via. Per questo Mulla Radio. Ambasciatore Chiodi Cianfarani, Fausto Biloslavo ci ha fatto capire la pericolosità di questo movimento, è percepito immagino così anche in Pakistan, per questo c'è questa offensiva militare per distruggerli. Chiedo anche a lei se questo è un allarme che deve, come dire, uscire da quelle zone, uscire dal paese e riguardare tutti noi che per esempio siamo anche in Italia. In questo momento mi risulta difficile fare delle previsioni. Certamente ha una sua logica locale il portavoce del TTP che ne ha rivendicato la paternità, ha espressamente indicato nell'esercito pakistano l'obiettivo dell'azione. E quindi questo si può dire. Si può dire qualcosa come ultima cosa, ambasciatore, riguardo ad italiani, cioè ci sono connazionali che nella zona, ovviamente non coinvolti in questa vicenda, ma che sono comunque nella zona? In quella zona non ci risultano in questo momento dei connazionali. Noi abbiamo un continuo monitoraggio su tutta la comunità italiana in Pakistan, naturalmente non solamente a Peshawar. Abbiamo mandato anche ieri, ma lo facciamo diciamo in relazione alla situazione locale con una certa frequenza, degli avvisi di sicurezza con un richiamo al mantenimento di determinate cautele. Diciamo che siamo in contatto con tutta la comunità italiana, che non è vastissima in questo paese. Io ne approfitto per dire di invitare anche coloro che si rechino in Pakistan solo per motivi temporanei a registrarsi presso l'ambasciata, dove la registrazione è praticamente un numero di cellulare che consente a noi di estendere anche alle presenze temporanee gli eventuali allarmi di sicurezza. Questo certamente, perché chissà, magari anche con le vacanze di Natale qualcuno fa un viaggio lì, o per lavoro, di registrarsi all'ambasciata mi sembra corretto, in modo da essere, come dire, controllati e sapere e raggiungibili, ecco, se succede qualcosa. Assolutamente raggiungibili, sempre in contatto con l'ambasciata, qualsiasi cosa succeda, ma soprattutto consentire a noi di raggiungerli con eventuali messaggi di cautela in relazione a specifiche situazioni. Allora, io, ambasciatore, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie all'ambasciatore Adriano Chioli Cianfarani da Islamabad. Vorrei invece con Fausto Biloslavo farti un paio di domande conclusive, spostandoci un pochino più in lì, per raccontare la vicenda dei Marò, che tu hai molto seguita, che riguarda però l'India, paese confinante col Pakistan. Perché, Fausto, non si riesce a risolvere questa questione che ormai dura da tempo immemore? Oggi mi ha molto colpito l'ex ministro Terzi, l'ex ministro degli esteri, che a Libero dichiara: ho come il sospetto che ci sia qualcosa di losco, come commesse internazionali, qualcosa di sordido sotto. Ma come? È stato ministro degli esteri, ha gestito la vicenda, no. e dice una cosa del genere. A che cosa si riferisce? No, forse si riferisce alla vecchia storia degli elicotteri, ma insomma noi il ministro degli esteri, cioè colui che ha detto, quando il governo Monti li ha rispediti in India, lui li aveva tenuti qui, ho capito che in quel caso è successo qualcosa di sordido e losco. Ma si riferisce al fatto che nella riunione drammatica che ci fu a Palazzo Chigi a quel tempo, perché avevamo deciso di tenere i Marò in Italia, l'allora ministro Passera aveva tratteggiato tutta una serie di rappresaglie tremende, economiche, non degli indiani, avrebbero bloccato le nostre navi in porto, nazionalizzato viaggio e così via. Uno può anche dire, magari anche noi potevamo fare delle controrappresaglie, poi bisogna vedere se gli indiani arrivavano fino a questo punto, bisogna vedere se arriveranno a questo punto, dato che il ministro della difesa attuale Pinotti ha detto che la torre resterà in Italia. Però ce n'è un altro in India, peraltro. Esatto, ce n'è un altro, quindi siamo nella peggiore situazione possibile. Il problema qual è? Che da 3 anni si sono susseguiti 3 governi e hanno fatto uno dietro l'altro tutta una serie di errori, dovuti anche a pressapochismo, dovuti forse anche al fatto che non ci consideriamo mai quello che siamo, cioè un grande paese, e alla fine pensiamo di essere sempre l'Italietta. Così non è. Il risultato però è che 2 servitori dello Stato sono là da 1000 giorni, e ieri il presidente della Corte Suprema indiana, non l'ultimo giudice, il presidente della Corte Suprema indiana non ci ha dato uno schiaffo in faccia, ci ha dato un pugno in perché faccia. Ha detto neanche la licenza di Natale, che era una cosa. Neanche la licenza di Natale, ma neanche per motivi di salute all'attore che deve operarsi al cuore l'8 gennaio. Cioè, quindi siamo veramente al punto più basso di questa vergognosa vicenda. Andiamo a vedere come va a finire, anche perché appunto la situazione, come dici tu, è che uno è in Italia e dice: noi non lo rimandiamo indietro per motivi di salute, ma loro ne hanno uno là. Quindi esatto, capite è peggio che peggio, quell'altro peggio cosa che fanno? Cioè, lo impalano praticamente, no, se non torna alla torre. No? questo ovviamente non succederà, fortunatamente, però sono 3 anni. anni, sono 3 anni che è lì. Io ti ringrazio Fausto, grazie per essere stato con noi, ovviamente Fausto Miloslavo. Andiamo in pubblicità, poi parliamo di questa vicenda che ieri raccontava il giornale, che mi ha davvero stravolto nel raccontarla. È possibile che in una scuola italiana in questo momento stia insegnando un professore che ha una condanna definitiva per pedofilia passata e che in del passato e che dopo questa condanna è diventato docente di ruolo a Torino? Pare che sia possibile. 24 mattino. Sono le 8:41. Ieri il giornale definiva questa storia una storia odiosa. E effettivamente come definirla altrimenti? Allora, si tratta di una vicenda che ci racconterà e racconteremo con l'aiuto di un avvocato, l'avvocato Roberto Ponzio, che è qui con noi. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, oggi il giornale raccontava, ieri il giornale raccontava per sommi capi questa vicenda: una bambina di 7 anni che viene mandata dalla famiglia a una vacanza a studio, una vacanza con la scuola che si fa in questi casi, e purtroppo questa bambina subisce una violenza, subisce violenza dall'educatore, con molte virgolette, ovviamente definito così, che doveva curarla. Solo che questo educatore, si legge ieri sul giornale, è diventato nel frattempo, dopo una condanna definitiva per questa violenza, un docente di ruolo, insegna matematica a Torino. Avvocato, ma è davvero così? Io l'ho dovuta leggere 3 volte questa cosa. Sì, la notizia purtroppo è in questi termini e noi l'abbiamo appresa dovendo ricorrere a fare un pignoramento presso terzi, perché la provvisionale che è stata liquidata non era stata nel frattempo pagata, e dagli accertamenti documentali risultava docente in una scuola media statale a Torino. A Torino. Senta, perché effettivamente questa persona, lei ha detto, non ha mai avuto un comportamento inqualificabile dall'inizio alla fine, e intanto la vicenda è chiusa processualmente, cioè ha avuto terze... processualmente non è chiusa. No, come condanna, intendo. Come condanna, sì. Come condanna, la condanna definitiva. È intervenuta, una condanna a 3 anni e 6 mesi del Tribunale di Udine. In appello, quando era possibile il patteggiamento, c'è stato un patteggiamento ad anni 1 e mesi 8 con la condizionale. Quindi la vicenda penale è chiusa. Si tratta adesso di iniziare un'azione civile, ma prima era necessario pagare, ottenere il pagamento della provvisionale. Pagamento che insomma si è rifiutato di fare, so che c'è il pignoramento dello stipendio. Poi alla fine, con l'intervento dei genitori, ha provveduto. Però la vicenda, lei capisce, questa è una vicenda, diciamo, processuale da chiudere, ed è giusto per lei e per la famiglia dell'assistita. La vicenda che però è più odiosa mediaticamente e più odiosa da mille punti di vista è il fatto che questa persona insegni e sia di ruolo nella scuola italiana. Ma come questo sia potuto accadere? Lei si è dato una spiegazione? Io direi che intanto, più che odiosa, è vergognosa una vicenda di questo tipo. Ma noi, come parte, risponderò alla sua domanda. Certamente non è alla parte offesa, che in questa situazione non è intervenuta nel patteggiamento, che è stata mortificata durante tutto questo lungo iter, a dare queste risposte. Però riterrei che le cause possano essere la frettolosità nel raggiungere un patteggiamento. Un patteggiamento per violenza ad una minore non è come un patteggiamento per una rapina, per un furto, per un omicidio colposo. Implicherebbe che ci siano determinate clausole, determinate situazioni che possano poi avere degli effetti interdittivi. Per esempio, non lavorare a contatto con i ragazzi. Con degli effetti interdittivi. È chiaro che appunto a quel punto lì era già lavorava in un Kinderheim, quindi probabilmente bisognava già prevedere questa situazione interdittiva. E poi direi la faciloneria nell'assunzione, perché qui francamente non so, bisognerà sempre verificare chi ti mette in casa. Lo Stato è stato distratto e superficiale, sì, nell'applicare una pena a richiesta dell'imputato, poi è stato veramente gravemente negligente, disarmante nell'assunzione. E qui dalle due l'una: o l'assunzione ignora ciò che era venuto, e questo è incredibile, o peggio ancora, lo sapeva ma ha ritenuto che questo non fosse ostativo all'assunzione. Beh, io la seconda la troverei ancora più grave, e spero che non sia accaduto. Voglio pensare, tra l'altro devo dire, l'avvocato abbia contattato il provveditore agli studi, è sceso dalle nuvole, cioè la notizia l'hanno appresa anche loro attraverso il giornale, attraverso la storia che le ha raccontato, e ci hanno fatto sapere che fanno un'indagine al termine della quale potranno rilasciare qualche dichiarazione, provveditorato agli studi. Speriamo bene, anche qui purtroppo c'è sempre gente che non sa, noi avremo bisogno di gente che sappia, invece di gente che ignora. Questo sì, perché voi avete deciso di rendere pubblica questa storia? Perché io non l'ho detto, se vuole lo dica lei, voi avete detto anche la scuola di Torino, cioè capisce che dire anche la scuola vuol dire gettare anche panico molti. La vicenda, perché la mia assistita ha ritenuto di renderla pubblica? Intanto perché la mia assistita non ha saputo rispondersi alle domande che ci eravamo fatti prima, cioè come possa una persona condannata nel 2007 con sentenza definitiva commessa i danni di una bambina di 7 anni essere permesso di esercitare la professione di insegnante, e come possa questo stesso Stato, la cui giustizia ha ritenuto che quell'uomo responsabile dell'offesa procurata all'integrità sessuale di una minore, consentiti di ricoprire questa cosa. Che cosa è successo? È successo che con l'avvocato dell'imputato si era raggiunto quasi un accordo così su situazioni minimali. La mia assistita è esasperata da questa lunga vicenda e non ha anche mezzi economici per affrontare adesso un giudizio civile lungo, che sarà poi il nuovo fatto di perizie per l'accertamento del danno. Si è raggiunto un accordo su una posizione, su una cifra minimale su cui c'erano i genitori che concorrevano. Quando si trattava di ratificare questo accordo fatto con l'avvocato, questo sedicente educatore ha messo il veto e ha detto no, si paga la provvisionale, per il resto facciano una sezione civile. E allora la mia assistita, di fronte a questa ennesima mortificazione, dice: che cosa mi resta? Mi resta che quello che ho subito io e quello che ho dovuto subire io non sia poi potenzialmente subito da altre persone. Farlo sapere. Però perché voi che reazione avete avuto? Perché voi, dicendo anche la scuola dove questo insegnante, dal punto di vista giuridico, un insegnante di ruolo, insegna, insomma, avete avuto anche questa responsabilità di gettare un po' nel panico, immagino, tutti coloro che mandano i bambini, i loro figli in quella scuola lì. Il problema non è che sia una situazione generalizzata, si tratta solo di togliere l'elemento che eventualmente è pregiudizievole, il discorso è chiuso. Ci siamo occupati varie volte di questa vicenda, poi adesso vede che già intervengono le questioni, dobbiamo fare un esame approfondito della questione. Il problema della mia assistita mica poteva dire questo insegnante deve anche documentare quello che ha avuto, e ha documentato con le sentenze. No, ma infatti la mia non era una domanda. Ha documentato quello che sapeva e ha posto all'opinione pubblica, perché la mia adesso così ha vissuto anni, tra l'altro è mancato il padre, è rimasta sola ad allevare questi figli, questa bambina è stata ricoverata in una struttura sanitaria specializzata in neuropsichiatria. Ragazzi, ha subito una violenza a 7 anni. A manifestarsi con episodi di anoresi notturna, una bambina che era solare, il terrore di recarsi in bagno da sola, gli incubi, il rifiuto di dormire da sola, la tendenza all'isolamento in presenza di coetanei, un umore triste, improvvise crisi. E allora, di fronte al dramma di una bambina distrutta, l'unica cosa che rimaneva è di rendere pubblico questa situazione e questa vicenda, per dire che forse questo Stato, prima di mettere così qualcuno nella scuola, dovrebbe pensarci 100 volte, dovrebbe pensarci normalmente, prima sulla preparazione degli insegnanti e poi immagino sulla fedina penale. Ma trovo una cosa banalissima chiedere a uno che deve fare l'educatore di bambini, ragazzini, ragazzine, che abbia la fedina penale pulita, figurarsi addirittura questo tipo di reato. Qual è la scuola, insomma, avvocato, ce la vuole dire? Tanto ma io adesso la scuola, la mia l'ha detta, non nutre che io stia lì a ripetere, anche perché ho letto poi dal giornale, ma è pubblicato ieri dall'articolo del giornale, la mia assistita aveva indicato una scuola media di Torino, di via Valenza, e poi tra l'altro adesso sta trasferito in un'altra scuola statale, quindi questo io me lo volevo dire, la scuola Fermi, perché non lo sapevo, è un accertamento che ha fatto il suo collega Durlo del giornale, che ha approfondito la notizia e ha portato questo. Io vorrei fare un appello pubblico sia al provveditore sia al preside della scuola Fermi. Volete venire a raccontarci in maniera serena? Cioè, siamo qui a cercare di capire il dato di fatto, che c'è una condanna definitiva, questa persona è stata condannata, è diventato docente di ruolo. E per me è una cosa molto molto molto seria, anche per l'avvocato Ponzio e credo anche per tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Giusto a corollario, avvocato, quanti giorni di carcere ha fatto questa persona? Nulla. Neanche un giorno? Perché tutto è finito con una sospensione patteggiamento della pena. Patteggiamento, ci ha detto un anno e otto mesi. Quindi un anno e otto mesi, si sa se uno è incensurato peraltro in carcere. Io adesso non lo so, ovviamente sentirò la mamma, la mia assistita, che nel frattempo è diventata anche maggiorenne, perché questa è una vicenda abbastanza vetusta. Era quella di indicare all'opinione pubblica questo fatto e di dire che sommessamente, al suo giudizio, a guardia di un pollaio non metti un lupo, confidando che nel frattempo sia diventato vegetariano. Sì, è una amara considerazione. E intanto, avvocato, io la ringrazio, però ripeto, adesso quando e se dalla scuola Fermi, se dal provveditorato agli studi decideranno di dire qualcosa, lei è già reinvitato e vedremo di approfondire la vicenda. Grazie, avvocato Ponzio. Grazie. Una vicenda sulla quale sicuramente dobbiamo scavare, dobbiamo cercare di capire qualcosa di più. 24 mattino. Ci scrive Alessandra, insegnante. Firmi quando ti assumono che non hai condanne, poi nessuno controlla, con tre punti esclamativi. Siccome Paolo da Roma ci chiama e leggo essere un insegnante, vorrei chiedere conferma. Paolo, funziona così? Assolutamente. Ma che bello, che bel mondo, che bel mondo. Altro che mani sul volante, qui le mani bisogna metterle intorno al collo dei personaggi che dovrebbero controllare e non controllano. Caro Milan, io sono 24 anni, sì, che sono precario, e ogni volta che io vengo assunto nella scuola a tempo determinato devo firmare che non ho avuto condanne penali. Che non ho procedimenti. E questo è giusto, però uno dovrebbe controllare, poi fare un controllino, dire. Allora, sarebbe bello fare una trasmissione su cosa succede negli uffici. Io ho adesso due avvocati che mi stanno seguendo, perché ho persone che non hanno i titoli che mi stanno davanti. Io ti dico che se tu, non so che quale sia la materia che tu conosci meno nella tua vita, non so, la chimica, la biologia, io ti mando a fare l'insegnante di biologia fra tre anni, ti faccio iscrivere nella graduatoria e tu entrerai in classe. Vabbè, però diciamo, questa è una vicenda, sì, sulle graduatorie è certo altro sforamento di regole, Paolo, però qui la vicenda è incredibile. Approfondiremo, non molleremo l'osso su questa vicenda. Ci vengono a parlare le istituzioni? Grazie. Ciao Italia! Siamo però in corsa, in conclusione, ogni giorno chiamiamo uno di voi che ci ascolta all'estero. Oggi guardate che andiamo lontani, lontanissimi. Voglio salutare Dario. Buongiorno Dario. Pronto, buongiorno. Pronto, Dario ci parla da, dillo tu Dario, da dove ci parli? Da Auckland, dove dovrebbe essere estate, invece viene un'acqua dell'Occidente. Da Auckland, in Nuova Zelanda, dall'altra parte del mondo, proprio più 12 ore di fuso orario. Abbiamo solo un minuto, Dario, mi spiace. Dicci che cosa fai ad Auckland e perché ci ascolti da lì. Io ho studiato ingegneria sismica, faccio l'ingegnere strutturale con la specializzazione in sismica e quindi lavoro specialmente su quello. E come ci ascolti? Perché ci segui? Vi seguivo già da prima e ho mantenuto la buona tradizione. Bravo. Prevalentemente via web, podcast e streaming. È fantastico. Dici un messaggio all'Italia da lì. E che si sente meno la mancanza del Milan. Insomma, un disastro il Milan, caro Dario, è un disastro, lascialo perdere. Mi dispiace, abbiamo solo avuto un minuto, ma sapete, noi qua vi chiamiamo una volta al giorno. Coloro che ci ascoltano all'estero, scriveteci. Saluto Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Lorenzo Nespoli in redazione, Paolo Corleoni in regia. A domani.